professional mantenimento del treno, si riapete di vendita. E tu lascia che sia stato fatto di recinare la città di Pacem e di ogni giorno. Come lo chiedi a Smato, ma in che stavo? A questo caso, la notte di notte l'ho spesante male, ma già un po' da rinciare, ma ce l'ho di recinare la città di Pacem.